Irrinunciabili presenta per RadioBigWars.com Quei bravi ragazzi, un film di Martin Scorsese. Henry Hill è un ragazzino come tanti, italo-irlandese. Vive in un quartiere povero di Brooklyn, è affascinato dai gangster che osserva dalla finestra di casa. Folgorato come da una chiamata, spinto da una vocazione naturale, decide allora che è quello che vuole fare da grande. D'altronde, come dice lo stesso Henry, che io mi ricordi, ho sempre voluto fare il gangster. Per me, fare il gangster è sempre stato meglio che fare il presidente degli Stati Uniti. Assisteremo alla sua parabola nel mondo della criminalità. Al contrario però di altri film, non si parla di potenti capi mafiosi, ma di un bravo ragazzo, ovvero di un livello molto basilare all'interno dell'organizzazione criminale, un pesce piccolo, insomma. Il giovane Harry vuole essere qualcosa di più rispetto agli altri poveracci del suo quartiere, che disprezza. Lascia dunque la scuola e inizia subito a fare lavoretti per il boss del quartiere. Scorsese mostra la vita di un bravo ragazzo, con i suoi privilegi, ma anche con tutte le sue pressioni e pericoli. Emergono codici di comportamento, linguaggi, uno stile di vita a cui attenersi in maniera scrupolosa. Il film a tratti ha un taglio documentaristico, con la voce fuori campo di Harry che illustra la sua vita quotidiana. Sono presenti anche aspetti grotteschi, in particolare durante certe sequenze molto violente, a rimarcare quale sia la normalità dei bravi ragazzi e quale sia la loro forma mentale. Il film è basato sul romanzo Il delitto paga bene di Nicholas Pileggi. Martin Scorsese scriverà la sceneggiatura con lo stesso Pileggi. Ray Liotta interpreta Harry Hill, protagonista e narratore. Sarà il ruolo per cui verrà sempre ricordato. A suo fianco, nella sua vita criminale, i suoi due amici di sempre, Jimmy Conway, interpretato da De Niro, il più razionale dei tre, ed infine un perfetto Joe Pesci nei panni di Tommy DeVito, un piccolo mostro instabile dedito a scatti di ira dalle conseguenze disastrose, ma molto amorevole però con la madre. Al loro fianco vi sono tantissimi volti noti e caratteristi dei gangster movie, come non citare Paul Sorvino o Frank Vincent. La vita criminale però non è solo privilegi, ma è anche costituita da paure reciproche. Ti puoi fidare del tuo miglior amico o ti tradirà. Oppure, una mancanza di rispetto deve essere lavata con il sangue. Bellissima la colonna sonora, curata dallo stesso Scorsese. Rolling Stone, Cream, Tony Bennett, solo per citare alcuni degli artisti. La regia e il montaggio valorizzano ogni scena, anche la più apparentemente banale come l'entrata in un club. Possiamo dire che esiste un prima e un dopo Quei bravi ragazzi per quanto riguarda i gangster movies. Buona visione.